siamo qua, ci sono Lorenzo Zamponi, Federazione Giacobini Italia, come ci sono Giulio Calella e Renzi, compagni appunto della redazione, Marta parla a nome di Venice Climate Camp e Andrea Gelfi ci darà un suo contributo come ricercatore all'Università di Nottingham. Ecco due parole per iniziare sul senso di questo numero, sui motivi che ci hanno portato a scriverlo, sul messaggio che volevamo dare dedicando all'emergenza climatica il numero 4. Questo appunto è il quarto numero, quindi chiude il nostro primo anno di attività e chiude un po' in qualche modo le quattro priorità, i quattro temi che avevamo deciso di affrontare un anno fa all'inizio all'avventura di Giacobini Italia. Quando avevamo pensato che per noi che fosse assolutamente urgente, centrale, entro il primo anno del nostro percorso parlare della questione climatica e parlarla dal punto di vista di Giacobini, poi arriverò a questo, ci sembrava potesse essere un po' una provocazione, qualcosa che stava fuori dal dibattito che si stava svolgendo. Già era difficile trovare spazio all'interno del dibattito pubblico sulla questione climatica, darci il punto di vista che volevamo dare a noi, che era un punto di vista appunto di collegamento fra giustizia climatica e giustizia sociale e di riappropriazione della questione climatica all'interno di una battaglia collettiva, sembrava che potesse essere in qualche modo una provocazione, un sasso che lanciamo nello stagno. Ci siamo... molto diverse e molto migliori a preparare questo numero dopo tutto quello che è successo in questi mesi, dopo che la questione climatica è entrata al centro del dibattito pubblico, non solo, al centro di processi di organizzazione, mobilitazione, aggregazione, al centro di una grande battaglia sociale e politica che è diventata visibile e centrale in Italia e in molti altri paesi nel giro di questi mesi. Questa chiaramente è la più grande fortuna che possiamo avere noi come Giacobini Italia, come rivista che prova a dare appunto un approccio militante ai temi che affronta, in qualche modo affrontare un tema quando è direttamente collegato a un movimento reale che avviene all'interno della società. Abbiamo deciso di intitolare questo numero Apocalypse No, proprio appunto per rappresentare, anche se ripeto, questi giorni è un po' difficile smentire l'apocalisse, visto che quello che sta succedendo anche oggi in giro per l'Italia, proprio per rappresentare questo no collettivo che vediamo insomma gridato nelle piazze, nelle strade di molti paesi del mondo, alla logica dell'estinzione, alla logica in qualche modo dell'irreversibilità della crisi climatica. L'abbiamo fatta affrontandola dal punto di vista nostro, dal punto di vista di Giacobini Italia, è quello in qualche modo di voler riportare i temi della discussione pubblica in maniera alternativa rispetto al pensiero dominante, in maniera alternativa a quello che ci viene raccontato tutti i giorni, e rimettendo al centro l'idea di solidarietà, organizzazione collettiva, azione collettiva. Quello che ci viene detto tutti i giorni è che nella nostra vita ogni piccolo progresso, ogni piccola emancipazione, ogni piccola liberazione può venire solo dalla guerra di tutti contro tutti, dalla competizione sfrenata, dall'essere più disponibili allo sfruttamento, all'autosfruttamento di fronte a tutto quello che ci viene richiesto. Uno dei principi fondamentali di Giacobini e del nostro progetto di Giacobini Italia è quello invece di rimettere al centro l'idea che ogni progresso può venire solo dalla battaglia fatta insieme, dall'organizzarsi, dal riconoscere i problemi come questioni comuni e trovare insieme nell'organizzazione comune, nella battaglia fatta insieme, la soluzione ai problemi. E questo è il tema che abbiamo provato a mettere al centro, il punto di vista con cui abbiamo provato a affrontare la questione climatica. Il no all'apocalisse che appunto abbiamo deciso di mettere in apertura nella prima pagina è un no a una delle tante narrazioni che ci vengono propinate fingendo di prendere sul serio la questione climatica, ma in realtà con l'ottica di smobilitare e di rendere sempre più passive le persone di fronte a questa questione, essendo sempre più difficile in qualche modo continuare a diffondere il negazionismo climatico, continuare a dire che il cambiamento climatico non avviene o comunque non ha cause umane di fronte all'evidenza scientifica ormai sempre più forte, una delle tante narrazioni per evitare appunto che venga preso sul serio è fingere di prendere sul serio ma dire beh vabbè tanto è la fine del mondo, tanto è l'apocalisse, la nostra specie è destinata all'estinzione e la presenza stessa dell'essere umano sulla Terra che è incompatibile con l'ecosistema e con l'equilibrio del pianeta, essendo la presenza stessa dell'essere umano sulla Terra la causa di tutto questo, allora non possiamo fare niente. Questa è una narrazione particolarmente subdola, perché finge di prendere sul serio la questione climatica, ma in realtà la rende talmente assoluta da renderla inaffrontabile e punta solo a smobilitare, solo a evitare che le persone si attivino veramente su questo. L'idea appunto che sia in qualche modo colpa della specie umana e non di processi sociali, economici ben precisi, colpa della presenza dell'uomo sulla Terra e non di determinato modo di produrre, commerciare e consumare merci che non coincide con la vita dell'essere umano sulla Terra, ma con una fase ben precisa della nostra storia come specie. L'editoriale con cui apriamo questo numero si intitola Non è colpa vostra. E anche qui volevamo smontare un'altra delle narrazioni che fingono di prendere sul serio la questione climatica, ma che in realtà appunto è una smobilitare. Quella secondo cui è colpa di ognuno di noi nella nostra vita quotidiana. Ognuno di noi ha uno stile di vita che è incompatibile con l'equilibrio del pianeta, che produce emissioni, eccetera, e quindi ognuno di noi cambia radicalmente il suo stile di vita da un giorno all'altro o non sarà possibile fare niente. Anche qui è una narrazione che finge di prendere sul serio la questione, chiaramente prende un pezzo di verità, perché c'è evidentemente un impatto nel nostro stile di vita e c'è anche la sfida di cambiare il nostro stile di vita per essere coerenti sulla battaglia sulla questione climatica, ma in realtà lo fa completamente per in qualche modo liberare da ogni responsabilità i veri responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni che sono dietro all'emergenza climatica. Il tentativo di colpevolizzare le persone, rendere ognuno di noi responsabile come individui per evitare appunto che vengano individuati i veri responsabili, ancora una volta per evitare quel collegamento tra battaglia sociale e battaglia ambientale che invece noi intendevamo mettere al centro del nostro numero e che per nostra fortuna è stato messo al centro delle lotte, delle mobilitazioni, di tutto quello che è successo negli ultimi mesi e ci ha permesso appunto di entrare in relazione con quello che stava succedendo. Una delle preoccupazioni che avevamo mentre preparavamo questo numero era di fare un numero un po' troppo apocalittico, no? Perché poi ci arriveranno dopo anche in Gaia, buona parte dei pezzi che abbiamo pubblicato in questo numero si occupa di smontare molte delle finte soluzioni che vengono propinate alla questione climatica, molti dei modi con cui l'emergenza climatica viene utilizzata in realtà per produrre più disuguaglianza, per in qualche modo fingere attraverso soluzioni più o meno tecniche o più o meno autoritarie di affrontare il problema. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di aprire e chiudere il numero con due articoli che in qualche modo la mettevano in positivo. L'articolo di apertura racconta molte delle cose che sono avvenute negli ultimi mesi in piazza, il processo di Friday for Future e in generale lo stadio attuale del movimento per la giustizia climatica, e il pezzo di chiusura racconta la proposta del Green New Deal e quello di cui stiamo discutendo, in particolare negli Stati Uniti, per mostrare quello che è in campo dal basso e dall'alto in questo appunto processo di prendere sul serio collettivamente e affrontare collettivamente la questione climatica come qualcosa legato alla giustizia sociale. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, dico solo un paio di cose su appunto questo articolo di apertura che mi è capitato di scrivere insieme a Salvatore Cannavò, su quello che è successo in questi mesi alle piazze, ma poi appunto ne parlerà direttamente Marta. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci direttamente con molti dei ragazzi e ragazze che hanno dato vita a Friday for Future in questi mesi, utilizzare anche i dati prodotti a un progetto di ricerca e così via, che insomma ci raccontano di una cosa molto importante, di un fatto sociale e politico di prima importanza, che chiaramente non inventa, no, la mobilitazione per l'ambiente e per il clima, che anche nel nostro paese, perché se ne dica, ha una sua storia, ha un suo radicamento, e che poi nell'ultimo quindicennio ha, in qualche modo si è centrata molto su forti vertenze territoriali, soprattutto intorno al tema delle grandi opere inutili e dannose, ma poi anche intorno a molte altre questioni, ma dall'altra parte non nasconde il salto di qualità, chiaramente, che abbiamo davanti, nel rendere questa questione una vertenza generale sul clima, okay, che mette in discussione il modello di sviluppo in maniera radicale e che la mette in termini di giustizia climatica, quindi collegando questione sociale e questione ambientale. Una cosa anche, insomma, spuria, complessa, non priva di elementi scomodi. Questo movimento richiede esplicitamente di riconoscere l'emergenza climatica. Da sinistra noi siamo abituati che l'emergenza la maggior parte delle volte viene usata contro di noi. No, nel 2011 c'era l'emergenza della crisi finanziaria e quindi bisognava, no, c'era il titolo del Sole 24 Ore, fate presto, e veniva a digerire il più grande pacchetto di austerità della storia di questo paese, perché no, l'emergenza è quasi sempre un dispositivo autoritario che viene utilizzato per reprimere le domande sociali. Il fatto di essere noi questa volta a sollevare l'emergenza, perché l'emergenza c'è di fatto, okay, è una cosa da una parte potentissima, da una parte chiaramente che sappiamo anche di dover maneggiare con cura, perché chiaramente non mancano, e appunto ne parleranno gli interventi successivi, anche i tentativi di utilizzare questa emergenza per forzare le soluzioni più autoritarie e che in realtà puntano a divaricare il più possibile questioni sociali e questioni ambientali. Mentre preparavamo il numero ci siamo imbattuti in un articolo uscito in una rivista americana la scorsa primavera, che raccontava di uno dei vari esperimenti di geoingegneria che vengono proposti a determinate aziende per dare soluzioni tecniche alla questione climatica. Uno di questi esperimenti fondamentalmente proponeva di disperdere nell'atmosfera un denso strato di polveri che in qualche modo frenasse i raggi del sole e in questo modo quindi abbassasse la temperatura terrestre. Mi ricordo che la prima cosa che ho pensato leggendo questo articolo è: ci viene più facile pensare di fermare il sole che di fermare il capitalismo. E questa è comunque una riflessione che possiamo, insomma, che proviamo a portare avanti all'interno di questo numero. Mettere in relazione la questione climatica non come un elemento naturale intoccabile, ma come qualcosa profondamente correlato ai processi storici, sociali, politici, economici, umani, okay, che caratterizzano la nostra esistenza. Chiaramente prima di tutto il sistema economico, ma poi insomma come tema in relazione col colonialismo, col genere, con molti dei processi che in qualche modo hanno attraversato la nostra storia negli ultimi due secoli. Ecco, chiudo qui perché volevo solo dare un'introduzione generale sui temi che abbiamo provato a dare questo numero. Dico solo una cosa: abbiamo avuto la possibilità a questo numero di fare molte presentazioni, confrontarsi con pezzi attivi su questo tema, con collettivi, assemblee, movimenti, associazioni, realtà di ogni tipo attive su questo tema in giro per l'Italia, e sicuramente rispetto a un anno fa quando l'abbiamo pensato, questa non è una provocazione intellettuale, questo è un fatto politico che c'è e qui siamo, insomma, contenti di poter dare un contributo. Grazie. Ciao a tutti e a tutte, io ringrazio per averci ospitato. Io parlo a nome di Fridays for Future Venezia, che è stato il promotore e l'organizzatore del Venice Climate Camp assieme al Comitato La Grandi Navi di Venezia. Dunque io sono qui oggi e non poteva esistere un momento più emblematico per essere qui a parlare di crisi climatica e giustizia climatica. Vengo da Venezia, in cui, come saprete tutti, in questi giorni sta vivendo una situazione drammatica. Quasi il 90% della città è stato sommerso a causa di una alta eccezionale che è avvenuta martedì sera, che ha toccato i 184 centimetri, è di poco inferiore alla grande inondazione del 66. E appunto Fridays for Future in questi giorni, insieme a decine e decine di volontari e volontarie, ha girato la città in lungo e in largo per prestare soccorso a persone che in questo momento sono in grave situazione di disagio, in cui che magari hanno sono vulnerabili. Parliamo di famiglie, parliamo di persone anziane lasciate sole. E oggi vengo sapendo che il mio gruppo, la mia assemblea si trova a Pellestrina a prestare soccorso in una delle zone, che è la zona probabilmente più colpita. Quello che è accaduto a Venezia non è un caso isolato. Tutto il litorale adriatico in questo momento è stato letteralmente fagocitato dall'acqua, da Jesolo fino a Chioggia. Anche in Sud Italia hanno vissuto momenti drammatici. Matera e Licate sono città che sono state sommerse da una fiumana di fango e detriti, e che appunto non sono notizie che si trovano facilmente nei media nazionali e nelle testate giornalistiche. E dunque vi parlo oggi avendo visto con i miei occhi cosa significa la crisi climatica e che cosa accade letteralmente ad una città che è in ginocchio in questo momento. Vi porto comunque un'esperienza di resilienza, di resistenza, di mutualismo, di cittadini e cittadine che si sono mobilitati e si sono mobilitate per portare solidarietà attiva. Rispetto alle passerelle che abbiamo visto a Piazza San Marco, in cui esponenti politici da destra a sinistra sono venuti facendo dichiarazioni e lasciando sostanzialmente le strade in mano ai volontari e alle volontarie. Giusto per portare, cioè quello che voglio raccontarvi oggi è che come Fridays for Future la crisi climatica per noi è una sfida, non è una scusa. Mi riferisco alle dichiarazioni del nostro sindaco Luigi Brugnaro, che qualche giorno ha avuto posizioni negazioniste fino all'altro ieri, e appunto si è trovato a Piazza San Marco a dichiarare che era un fenomeno imprevedibile ed è colpa dei cambiamenti climatici. Questa è ovviamente una scusa rispetto a delle inadempienze di un'amministrazione e delle amministrazioni precedenti, dal locale dall'amministrazione comunale fino al piano nazionale. Appunto, quello che voglio raccontarvi oggi è che appunto vediamo, per noi questa crisi climatica è una sfida, perché è vero sì che è data da eventi eccezionali, hanno coniato un neologismo per quello che è accaduto in questi giorni in Italia, si chiama Medicane, un insieme fra l'abbreviazione di Mediterranean Hurricane, appunto perché c'è stato un cortocircuito di raffiche di vento che provenendo dallo Scirocco, proveniente dal sud, e le basse pressioni dei Balcani hanno creato un circolo vizioso per cui l'acqua non si è abbassata. È una settimana che Venezia è sotto acqua, c'è stata l'acqua eccezionale martedì, ma tuttora, cioè tutt'oggi abbiamo affrontato 160 centimetri. E giusto per darvi un dato, la Basilica di San Marco negli ultimi 1200 anni è stata inondata dall'acqua 6 volte, le ultime 3 volte negli ultimi 40 anni. Questo per dire cosa? Che c'è evidentemente le condizioni meteorologiche si sono evidentemente acuite, l'abbiamo visto in tutto il mondo. Quest'estate l'Amazzonia la foresta dell'Amazzonia è andata a fuoco, l'abbiamo visto in Siberia, in Groenlandia, abbiamo notizia anche di Mira è stata colpita da un uragano qualche anno fa, il Bellunese ha avuto milioni di alberi abbattuti. A cosa è dovuto questo? Perché accade questo? Quello che diciamo noi è che parliamo di 40-50 anni di politiche scellerate. E io mi ricollego qui a quello che diceva Lorenzo poco fa, e diceva bene. c'è questa narrazione, cioè dobbiamo resistere e combattere questa narrazione per cui l'attività dell'uomo sia intrinsecamente malvagia, intrinsecamente estrattivista e basata su rapporti di sfruttamento. Non è così. Venezia è un caso emblematico, la bellezza eccezionale di Venezia è frutto della capacità dell'attività umana di coesistere insieme alla riproduzione della vita dell'ecosistema lagunare. Tutti gli interventi che sono stati fatti nel corso dei secoli, sin dall'inizio della Serenissima, dalla costruzione di Venezia, sono stati interventi reversibili. Questo vuol dire che basandosi sul delicato ecosistema che vige in laguna e quindi il ricambio delle acque della laguna con il mare aperto, per non parlare poi di tutti i ritmi riproduttivi, l'uomo in questo ha agito in maniera sempre cosciente di questo, dallo scavo dei canali per facilitare l'attraversamento delle barche, delle piccole imbarcazioni, fino alle palafitte su cui reggono tutt'oggi gli edifici storici del Canal Grande e di tutta l'isola Maggiore, fino alla costruzione artificiale delle barene, che è recentissima e che serve per l'assorbimento dell'acqua. Tutto questo dal 1964, quando è stato scavato il canale dei petroli per facilitare l'accesso delle grandi navi petrolifere che dalla bocca di Porto degli Alberoni arrivano fino alla centrale di Fusina, a Porto Marghera, per non parlare poi dello scavo del canale che è per l'attraversamento delle grandi crociere, delle grandi navi, delle navi da crociera, che da 7 metri è stato scavato fino a raggiungere i 12 metri. Ecco, tutto questo ha permesso che tonnellate e tonnellate di metri cubi d'acqua venissero sostanzialmente iniettati dentro la laguna senza alcuna possibilità di arginamento. E quindi sostanzialmente questo ha cambiato radicalmente la morfologia lagunare. Il MOSE, soluzione che ad oggi viene, insomma, leggiamo tutti i giornali, guardiamo i telegiornali, è stato detto che questa acqua alta, queste maree eccezionali sarebbero potute evitare se il MOSE fosse stato ultimato. Ecco, il MOSE è l'ultima grande opera, l'ultimo intervento dell'uomo che ha avuto un impatto irreversibile sulla nostra laguna. E cito qui per esempio un dossier che è stato pubblicato da Nature qualche mese fa, che dice che anche se il MOSE fosse stato ultimato e quindi fosse stato in funzione qualche giorno fa, comunque secondo i pronostici del cambiamento climatico necessiterebbe di rimanere aperto per quasi più di 6 mesi, se non addirittura l'intero anno. Ovviamente questa cosa ha delle implicazioni, cioè sancirebbe la morte della laguna, perché appunto è stato ideato e progettato senza avere le conoscenze di quello che significa la riproduzione della vita nella laguna. E dunque io vi racconto questo perché ovviamente questa è stata, sono conoscenze che ci vengono non in quanto Fridays for Future, ma in quanto depositari di una tradizione che è storica e politica e che viene dai movimenti a Venezia e in Italia. Fridays for Future a Venezia non è l'unico caso in cui si sono creati dei rapporti sinergici con i comitati territoriali. Appunto, io vi racconto questo perché è necessario ragionare oggi su quello che la crisi climatica ci mette di fronte. Questa sfida gigantesca. Fridays for Future ha avuto la capacità, perlomeno quest'estate, con il Venice Climate Camp, di spalancare le porte ad un immaginario che guarda all'Europa, ma non solo, guarda al mondo, guarda alle lotte transnazionali per la giustizia climatica, partendo dalle vertenze territoriali. Durante il Venice Climate Camp, io vi racconto, per chi di voi immagino non siano molti qui, per chi di voi ha partecipato o appunto se avete letto qualcosa, è stato un momento inedito e per certi versi storico. La compagine del Venice Climate Camp è stata di quasi mille attiviste che ci hanno raggiunto da tutta Italia e da tutta Europa. È stato un momento in cui abbiamo ospitato attivisti climatici provenienti dalla Patagonia, mi riferisco qui a Moira Millet, abbiamo ospitato attivisti climatici provenienti dal Niger come Nimo Basse, che ci hanno raccontato che cosa significa la devastazione di multinazionali come Benetton, Benettissima ed Eni, la nostra beneamata compagnia di bandiera che ha sostanzialmente depredato e saccheggiato il delta del Niger e ucciso centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini. Ecco dunque, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza questo rapporto sinergico che si è innescato dal marzo scorso, quando Fridays for Future è esploso, e appunto è esploso come un movimento giovanile che è stato capace di catalizzare l'attenzione e la sensibilità di migliaia e migliaia di giovani, milioni di giovani. Abbiamo portato in piazza quasi 8 milioni di persone solo in Italia. Nello stesso modo in cui però è un movimento che ha guardato al sapere e al sapere critico dei movimenti per contro la devastazione territoriale dei propri territori. Riuscendo appunto a guardare all'orizzonte delle mobilitazioni e dell'organizzazione che si sta dando in Europa e nel mondo. Ecco dunque, diceva bene prima Lorenzo, non possiamo fermarci alla narrazione che ci vuole tutti responsabili ugualmente come individui. Quello che è successo a Venezia, ripeto, scusatemi se mi ripeto, sono un po' agitata, quello che è successo a Venezia è evidentemente il frutto di scelte politiche che hanno guardato alla speculazione, agli interessi privati, alla corruzione. Il Mose, cito, siamo arrivati a per la progettazione e costruzione è arrivata a quota 5,3 miliardi di euro, di cui 1,5 milioni è andato via solo in corruzione. Appunto, sono scelte dovute alla speculazione, alla corruzione e allo sfruttamento. Quello che invece riteniamo sia doveroso fare è organizzarci dal basso collettivamente, perché questa crisi climatica non ci aspetta, non aspetta nessuno, e allo stesso modo in cui richiede delle risposte e delle responsabilità che possiamo avere noi attraverso l'organizzazione collettiva. Appunto, io ricordo che il 29 ci sono stati tre scioperi per il clima globali. Il quarto avverrà questo 29 novembre, quindi a fine mese, e noi a Venezia abbiamo lanciato un corteo per il 30 novembre, che sarà un corteo cittadino, ma che vede, che cerca e desidera, immagina una partecipazione il più allargata possibile. Venezia è patrimonio mondiale ed è appunto una nostra responsabilità, un nostro dovere, un nostro diritto richiedere che vengano fatte delle scelte, vengano compiute da oggi delle scelte che guardino ad un cambiamento radicale del nostro sistema di sviluppo. E quindi insomma vi invito, chiudo invitandovi tutte e tutti a venire a Venezia con noi il 30 di novembre. Grazie. Ringraziamenti, il primo ringraziamento è per Bach, che per me è casa ed è per me sempre bellissimo essere qua o al bancone del bar a bere le graffe o a discutere di altri argomenti, e poi ringrazio moltissimo c'entra la questione alimentare. Volevo anche molto ringraziare la redazione, insomma, chi ha pensato e poi realizzato questo numero di Jacobin, perché penso che sia un numero molto bello, molto importante, e che in tempi di Fridays for Future contributi di questo tipo siano veramente molto utili anche nelle classi delle scuole superiori, per discutere, per ragionare, perché poi insomma una rivista è un dispositivo di ragionamento collettivo, e penso che sia veramente un numero ben riuscito da molti punti di vista, dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista della forma espressiva. È un numero assolutamente accessibile, e poi tiene al proprio interno una varietà di ragionamenti che secondo me sono interessanti per affrontare l'insieme di crisi ecologiche con le quali facciamo i conti, insomma, di cui il cambiamento climatico è una, no? Siamo davanti alla sesta estinzione di massa, il tema della biodiversità, siamo di fronte a tutto il tema dell'acidificazione degli oceani, siamo di fronte al tema dell'esaurimento delle proprietà nutritive del suolo, che è una cosa in cui sì, va bene, apocalisse no, ho capito il discorso, però viviamo nelle rovine del capitalismo, eh? Questo dunque, cioè una discussione su Taranto, ma sarebbe lo stesso su Taranto, o su Venezia, una discussione su Taranto è una discussione sulle rovine del capitalismo. Quindi apocalisse no, perché da una parte l'apocalisse non va bene, ma non va bene l'apocalisse anche perché non va bene l'idea che questa storia avrà un finale come la Gerusalemme come la Gerusalemme celeste, cioè nel senso noi dobbiamo stare ormai con quella che Elizabeth Stengers chiama le intrusioni di Gaia, cioè non c'è un punto zero di ritorno, noi dobbiamo stare nel mezzo di tutto quello che ci succede, è la nostra epoca storica che ce lo domanda, e questo secondo me apre tutta una serie di riflessioni che hanno un po' a che fare anche con lo sfondo politico del numero. Io di questo vorrei un po' discutere, lascio da parte il milione di cose sulle quali sono d'accordo e mi focalizzo un po' su alcuni stimoli alla discussione. Il primo, questo tentativo di tenere assieme questione sociale e questione ecologica, è chiaro che sono d'accordo, è evidente che la questione del capitale oceano è una questione assolutamente ben posta. Non ci si può porre la questione delle tante crisi ecologiche senza fare conti con il capitalismo su scala globale, senza fare i conti con le tecnoscienze, senza fare i conti con le forme di manipolazione del mondo che lo stanno trasformando in quello che è. Questo è assodato, quindi su questo non voglio essere frainteso. Un po' il rischio qualche volta è di dire, vabbè, avevamo il socialismo, ci aggiungiamo l'eco, ora c'è l'eco-socialismo e il problema è risolto. No? Secondo me questo è un po' un rischio di fondo, È un po' un rischio di fondo, perché se è vero che poi le lotte lo fanno, non è che sono discorsi teorici, che questione sociale e questione ambientale e questione ecologica continuamente si intersecano nelle cose, ma anche nella presa di parola dei movimenti, questo è un dato di fatto, secondo me questa è una strada un po' corta. È una strada un po' corta perché c'è anche un'autonomia delle questioni ecologiche in qualche modo. Cioè, mi spiego meglio. Se noi... parto da uno slogan, uno slogan che viene dalla ZAD, la zona da difendere, l'aeroporto di Notre-Dame-de-Lens in Francia, no? Questa grande lotta contro la costruzione dell'aeroporto che poi è diventata una lotta di autogestione, di invenzione di forme di vita, di miscuglio, di comunità molto eterogenee tra di loro che hanno fatto rivivere in forme completamente differenti quei luoghi. Ecco. Il loro slogan è: noi non difendiamo la natura, noi siamo la natura che si difende. È uno slogan, uno può dire, vabbè, è uno slogan riuscito, perché ti piace. No, dietro c'è qualcos'altro, forse, oltre allo slogan, no? Cioè, c'è anche il tentativo di impostare un discorso sulla crisi ecologica che attraversa, figurati, tutte le contraddizioni che hanno a che fare con il capitalismo e la dimensione sociale, ma che prova un attimino a fare i conti anche con una dimensione essenzialistica che è quella tra natura e cultura, che certi discorsi sul socialismo tendono a riproporre in qualche modo. C'è una divisione essenzialistica in cui, vabbè, insomma, c'è la dimensione umana, c'è la cultura separata e poi c'è la natura, e la natura può avere diverse funzioni, cioè può essere pensata o come una materia che va solo plasmata dall'umano, oppure nelle versioni molto belle, il pezzo di Gaia, ecco, diciamo, nelle versioni fasciste e reazionarie in cui la natura sarebbe un archè a cui noi dovremmo conformarci, no? Ecco, io credo che stare dentro a questa idea che la natura è qualcosa che non ci riguarda e che sta là fuori e che in qualche modo va protetta attraverso dei dispositivi più o meno istituzionali, più o meno statali, pone una serie di problemi per pensare proprio alle alternative di vita, le alternative di produzione, le alternative di rigenerazione, cioè... Non lo so, io mi occupo, ci sono mille questioni evidentemente collegate alle crisi ecologiche, no? Prendiamone una, prendiamo la dimensione dell'agricoltura. È evidente che l'industrializzazione del cibo, l'agrobusiness, cioè produce dei danni devastanti da ogni punto di vista, compreso la questione climatica direttamente, no? È chiaro che un discorso sulle alternative è un discorso che ha a che fare su un altro modello sociale, contadino, anziché di agrobusiness, ma ha anche a che fare con un'altra politica della materia, cioè l'invenzione di altri modi in cui entità eterogenee si relazionano dentro un uso reciproco, artefatti, piante, forme di relazione sociale. Ecco, io penso che tutto questo spazio di invenzione, di costruzione di piccoli frammenti di giustizia immediata, di pratiche alternative, come può essere l'agroecologia, ma ce ne sono tante altre, da tanti altri punti di vista. Io credo che un discorso su la questione dell'ecologia debba essere un discorso che parte dalla capacità, che è sempre sperimentale, di trovare delle alternative che siano delle alternative che attraversano anche gli stili di vita individuali e collettivi, i modi di stare al mondo, e che lì dentro costruiscono poi istituzioni alternative. Cioè il tema dell'autonomia dentro la questione ecologica, secondo me, è un tema di fondo che riemerge, forse mettendo anche un po' in discussione tutta una serie di abitudini del pensiero di sinistra, in termini generali, non solo riferendomi magari al tema del socialismo, che forse il nostro tempo ci chiede di mettere in discussione. Cioè, finisco con un esempio molto determinato, no? È chiaro che il Green New Deal viene in primis dalla dimensione dei socialisti interni e democratici, poi c'è un dibattito che attraversa il Labour Party, ora arriva in Europa, è diventata una parola che vuol dire un insieme di cose e bisognerebbe punto per punto discuterlo, perché poi non è che sono contrario alle incursioni, cioè voglio dire, noi in Regione Toscana ora abbiamo appena portato a casa una legge per la libera trasformazione dei prodotti contadini, che è un'ottima legge, anche con Tommaso Fattore, quindi, però in generale voglio dire, no? Green New Deal può voler dire un insieme di cose, può voler dire un insieme di cose, alcuni possono tranquillamente finire nel capitalismo verde, questo lo sappiamo, più in generale ha un'intelligibilità della trasformazione sociale molto centrata sul ruolo dello Stato. Ecco, se noi dobbiamo anche fare i conti, e questo lo pongo come domanda, sulla dimensione del socialismo dell'America Latina, ad esempio. Cioè, com'è che riproponendo la modernizzazione, il progresso, una logica della società umana in relazione con le tante altre entità che popolano il mondo, di quel tipo lì, cioè ancorate nella socialdemocrazia, nel socialismo, nel progressismo di sinistra, poi in America Latina avrà prodotto un sacco di disastri. E questa è una domanda che in qualche modo va posta a chi ripropone il tema del socialismo in questo secolo, no? Cioè, c'è una cultura del socialismo che non credo necessariamente sia la migliore cultura politica anche per attraversare il tema dell'ecologia, insomma. Cioè, che mettere al centro il ruolo dello Stato nel processo di trasformazione possa avere una serie di rischi. Scusate la confusione. Allora, dico due cose io, partendo da tutti i tantissimi spunti degli interventi di Andrea e Marta, e secondo me tu, Andrea, hai ragione quando dici che non possiamo adottare una prospettiva per cui c'è un'origine, un archè, un punto originario da cui ripartire, a cui ritornare. E diceva benissimo anche Marta che molte delle narrazioni da cui siamo circondati, che tendono a vittimizzarci e a colpevolizzarci come individui, a vittimizzare la natura e a colpevolizzare noi, sono fallaci, perché di fatto cercano di rimuovere un dato che è fondamentale e di cui un po' proviamo a occuparci anche in questo numero, cioè che la natura in se stessa non è un concetto dato, non è qualcosa di naturale, appunto, è un prodotto culturale. È stato un prodotto culturalmente costruito, non ha avuto sempre la stessa accezione nel corso dei secoli, e da quando l'uomo ha industrializzato la società è diventato ancora qualcosa di diverso, è diventato qualcosa da cui ci siamo via via separati man mano che modificavamo sempre di più lo spazio urbano, ma anche lo spazio non urbano, perché col crescere delle città non solo le città sono cambiate, ma sono cambiate anche le campagne che le circondavano, che sempre di più devono provvedere ai bisogni alimentari soprattutto, ma non solo, delle città, e che quindi si modificano a loro volta di conseguenza. E dunque questo assunto da tenere presente, perché è importante, perché non è vero che l'uomo appunto è inadatto a stare su questa terra, non è vero che l'uomo è estraneo alla natura, e lo diceva benissimo Marta prima, quando si è operato spesso e volentieri, il caso di Venezia è emblematico, tenendo presente quelli che sono alcuni principi di base di funzionamento degli ambienti naturali in cui si andava a stare, si è riusciti a trovare delle forme di equilibrio che non distruggessero completamente, che modificavano senza dubbio l'ambiente naturale, ma non lo distruggevano necessariamente, mentre invece il capitalismo questa cosa non la fa, distrugge e esaurisce le risorse, è la sua tendenza annichilente, potremmo dire, e quindi questa cosa è sempre da tenere presente quando ci colpevolizzano e quando ci dicono appunto l'estinzione è inevitabile perché l'uomo è incompatibile, è un parassita che abita questa terra ed è giusto che la terra se ne liberi. È una narrazione da rifiutare, perché rimuove quelli che sono i colpevoli veri e propri di questo andazzo, e cioè un modello produttivo, un modo di rapportarci alle risorse naturali e agli ambienti naturali, che non è un modo così, un destino scritto nelle carte, non è qualcosa a cui ci dobbiamo rassegnare, non è che è sempre andata così, e quindi lo possiamo modificare. Basti pensare che c'è chi fa risalire insomma l'origine dell'antropocene allo stesso sistema agricolo, no? Da quando abbiamo iniziato a praticare l'agricoltura abbiamo iniziato a modificare le cose. Faccio un esempio: le graminacee, che sono il tipo di pianta più diffuso in tutto il mondo, prima non erano così diffuse, noi le abbiamo portate ovunque perché ci servivano per coltivarle, infatti non si sa bene qui chi sfrutta chi, se siamo noi che sfruttiamo le graminacee, se sono le graminacee che hanno sfruttato noi per diffondersi ovunque sul pianeta. Però appunto ci sono modelli alternativi. Ebbene, queste narrazioni che invece tentano di colpevolizzarci, tentano di dire no, che la natura è benevola, che è madre natura, e qui femminilizzando la natura, che non è un dato così neutro, ecco, e quindi tendono a chiederci di difenderla. Da non si capisce bene cosa, dall'uomo in generale, o a volte spesso dall'uomo, da certe tipologie di umani in particolare, che non sono quasi sempre quelli che sono poi i veri responsabili della sua devastazione. Faccio un altro esempio: quando appunto abbiamo iniziato come occidentali a colonizzare il mondo e abbiamo scoperto le grandi meraviglie naturali che esistevano anche fuori dall'Europa, abbiamo iniziato a pensare che le dovevamo studiare, che le dovevamo proteggere, ecco, proteggere la natura, ma in questo caso da chi la proteggevamo? Da coloro che ci vivevano, che evidentemente non se ne rendevano conto, che chiamavamo selvaggi e che in quanto selvaggi non erano in grado di prendersi cura della loro natura, e quindi dovevamo arrivare noi occidentali a spiegargli come fare i parchi naturali e come salvaguardare la loro natura. E questo è un po' un modo che si ripresenta, questo meccanismo, questo modello di pensiero coloniale si ripresenta in tutti i tentativi di greenwashing, no? Per cui c'è questo sottotesto che dice sì, va bene, ok, siamo stati sbadati, siamo stati cattivi come razza umana, non come multinazionale, però sempre generalizzando il più possibile, e adesso dobbiamo invece, possiamo rimediare se appunto ci prendiamo cura della natura e così via, facendo che cosa? Di nuovo proponendo un altro meccanismo, un capitalismo bonario che appunto può proteggere la natura sempre mettendola a profitto, stranamente. E quindi queste narrazioni pervasive sono quelle più difficili da smontare, e però, sempre per riprendere le parole da Andrea, è vero che non c'è un'origine a cui tornare, e non si può più neanche accettare l'idea di un progresso infinito, di una crescita infinita e di modelli produttivi che semplicemente presi tali e quali, ma messi nelle mani giuste, possono portare a esiti diversi. C'è bisogno di una terza strada e il compito storico nostro è proprio trovare quest'altra strada e cercare di adattarci a quello che sta avvenendo, perché la vita è anche questo, adattamento, e il clima cambia comunque, cambia sempre. Il problema è che noi gli stiamo dando una mano eccessiva a cambiare, non sappiamo assolutamente in che direzione, con che velocità cambierà, e quindi sicuramente dobbiamo smettere di intervenire, questo è poco ma sicuro. E dopodiché dobbiamo trovare un modo di coabitare anche con quelle che saranno le conseguenze inevitabili a lungo periodo che già abbiamo prodotto. In questo senso scriviamo nel numero che la catastrofe è già in corso. È già in corso, lo vediamo appunto in Italia, ma è già in corso in tante parti del mondo che non vediamo, che di solito non ci arrivano, perché fanno parte di tutti quei paesi del sud del mondo che non arrivano nei nostri telegiornali banalmente, e ogni tanto ci arriva l'eco perché sentiamo parlare di migranti climatici, ogni tanto ci arriva l'eco di qualche uragano devastante, di qualche incendio devastante e così via. E in questo senso il fatto che la catastrofe sia già in corso, il fatto che dobbiamo ripensare radicalmente il modello produttivo per fermarla e fare un'operazione di limitazione dei danni, è questo soprattutto che la lega ai temi sociali, perché è chiaro che per fare questo è necessario ristrutturare radicalmente la società, altrimenti non sarà possibile vincere questa sfida sul lungo periodo. Io vi ringrazio per l'intervento e provo ad andare un po' schematicamente su alcuni spunti, partendo dal lavoro che abbiamo fatto sulla rivista. Noi, uno dei pezzi della rivista è dedicato anche alla figura di Greta, e mi ci allaccio perché sulla questione emergenza e su come viene risposto mi aiuta a costruire un po' il ragionamento. Noi il pezzo si intitola "Perché odiano Greta", cioè la figura di Greta che è stata attaccata in tutti i modi possibili, diciamo, principalmente dicendo che si tratta di una piccola bambina con le treccine, come giustamente si dice nel pezzo, a 16 anni si è esattamente bambini, si è una ragazza, tra l'altro a un maschio non sarebbe mai detto bambino a 16 anni, sicuramente si sarebbe detto ragazzo. È attaccata quindi perché giovane, perché donna e per l'aspetto fisico, se ne è letta in tutti i colori, e poi in più per questa sindrome di Asperger che in qualche modo la renderebbe meno credibile. Greta in realtà nell'ampio dibattito su Greta io sono un fan, perché proprio per questo suo che lei stessa chiama superpotere della sindrome di Asperger, che le permette di dire o bianco o nero e di non perdere mai il punto, ed è quello che sconvolge dove la invitano appunto alle grandi conferenze dell'ONU, dove se la prendono, provano ogni volta a lisciarla, ogni volta arriva che Greta sembra vabbè ormai se la sorpresa se la, e poi lei si alza e dice come osate, no? Di che state a parlare, cioè fermatevi tutti, cioè non è diciamo innanzitutto il metodo Asperger è l'unico che a un certo punto è vincente, nel senso o sì o no, e quindi ha una difficoltà a essere sussunta, diciamo così, dalle dinamiche di potere, e lei ha giocato moltissimo su questa cosa, cioè alla fine la sua forza è stato di dire qua ci dicono che fino al 2030 vanno dimezzate le emissioni, e quindi vanno dimezzate le emissioni, punto. Non c'è discussione, non ho diventato emissioni. Al 2050 hanno azzerato, punto, hanno azzerato. E questa cosa qua, così radicale, è anche, però, che prende così l'emergenza, è stata una potentissima comunque per costruire il movimento che c'è. Cioè senza questa emergenza, che ha tutte le ambivalenze, poi ci arrivo che diceva prima Lorenzo, non ci sarebbe stata questa esplosione. Un'altra frase che lei dice, io voglio che voi state nel panico. Infatti lei dice, voglio il panico, perché con il panico facciamo un casino e li proviamo a fermarli. E quindi prende l'occasione. Alla fine è quello che fa Alexandria Ocasio-Cortez negli Stati Uniti con il Green New Deal, ci arrivo perché sono d'accordo con molti degli spunti anche critici che fai, però la cosa forte è che anche lì prende l'emergenza climatica nella sua drammaticità, ma come un'occasione per ribaltare, quindi già dal nome, no? Si richiama appunto il New Deal, lasciando perdere, diciamo, i limiti storici del New Deal di Roosevelt, perché ovviamente quello sarebbe un altro tipo di dibattito, però partendo, diciamo, dall'idea che bisogna cambiare completamente il paradigma economico, quindi cambiare completamente il modo in cui si interviene nella società. E tanto che viene accusata, perché si dice, vabbè, quella è tanto quanto a Greta si dice è una bambina che sogna, invece giustamente Greta risponde: siete voi che sognate, che pensate che il mondo può continuare così come è andato avanti finora, è un sogno quello, cioè invece una cosa concreta è cambiare radicalmente, altrimenti si va sotto l'acqua, come succede appunto a Venezia. E lì anche lì dice: o si cambia radicalmente la politica economica, sociale e complessivamente, oppure viene accusata appunto la proposta di Alexandria Ocasio-Cortez di non essere una proposta sul clima, ma di essere una lunga lista di desideri, perché prevede, oltre all'azzeramento delle emissioni, appunto una serie di politiche sul rinnovamento energetico, eccetera, anche tutta una serie di interventi sociali, di giustizia sociale, di diritti sul lavoro e quindi di cambiamento complessivo, diciamo, della politica economica, con un investimento pubblico imponente. Viene criticata per questo dicendo: no, è una lunga lista dei desideri, quindi non è credibile, non è una politica sul clima. In realtà ha questa forza, ha la forza di dire: fermi tutti, qua va cambiato completamente la dinamica. È chiaro che si fa questo scontro così forte che c'è sulla crisi climatica, avviene con una debolezza pregressa altrettanto forte, perché quando tu dici non è che basta mettere c'è il socialismo e ci aggiungiamo eco e abbiamo risolto il problema, no, cioè aggiungere eco mi sembra essenziale, ma sappiamo che il socialismo storicamente esistito ha contribuito alla devastazione del pianeta, quindi il punto è anche che devi saper ripensare il socialismo, quindi è che o costruisci veramente un'alternativa di fondo anche ai precedenti storici, diciamo la piccola ambizione come Giacomo, quindi di contribuire in quel senso, tra l'altro già fin dall'inizio, cioè diciamo l'immaginario giacobino, cioè, quindi pre-socialista, diciamo così, rivoluzionario ma pre-socialista, è proprio di dire: ok, ricominciamo dal cambiamento radicale, ma per costruire un'alternativa. Quella proposta lì è stata talmente forte che poi è stata diciamo scimmiottata fino a renderla a un'altra cosa, quello di cui si parla per esempio in Europa, in molti governi, è completamente una cosa differente. Io dico spesso alle presentazioni: non tutto quello che è green è verde, cioè in realtà ci stanno proponendo cose che hanno veramente poco a che fare con questo. Addirittura in Italia il governo, come lo chiamiamo, giallo rosso, giallo rosa, giallo... ha fatto un decreto chiamandolo decreto clima, e con Di Maio che ha detto il primo passo verso il Green New Deal, e che prevede 450 milioni di euro, cioè una cifra ridicola. Basta pensare che per misure minuscole, perché quello che è previsto è un piccolo incentivo per chi lotta alla mobilità pubblica, per chi lotta all'auto, incentivi per i negozi che vendono prodotti sfusi e un fondo per rafforzare le corse preferenziali per i mezzi pubblici, cioè cose che mette le relazioni col clima, con l'emergenza che c'è di fronte, con l'impatto che devi avere per provare, è veramente quasi vergognoso, diciamo, dire, usarlo. E tra l'altro lo Stato italiano, nello stesso anno in cui finanzia 450 milioni secondo loro contro l'emergenza climatica, finanzia per 18,8 miliardi in modo diretto e indiretto l'industria dei combustibili fossili. Quindi di fatto tu con una cifra 40 volte superiore a quella che utilizzi per salvare il pianeta, la utilizzi per devastare il pianeta. Quindi hai eppure lo chiami Green New Deal. Ancora in Germania la Merkel, con una cifra un po' superiore, perché parliamo di 50 miliardi di euro in 3 anni, però di fatto anche lì fa tutta una politica totalmente basata sulla tassazione, quindi sull'aumento dei prezzi dei fattori inquinanti, fondamentalmente delegando completamente alla dinamica della domanda e dell'offerta, quindi in una dinamica totalmente liberista, ogni speranza di salvare il pianeta, si consumerà meno cose inquinanti perché costano di più, si spera, e poi e di fatto diventa l'inquinamento, diventa una cosa che se la paghi la puoi fare, insomma. Quindi il punto invece è che rovesciare completamente questa logica ed è la forza del Green New Deal, cioè avere una proposta. Sanders nella sua campagna per le primarie parla di un finanziamento di 16.300 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di cifre imponenti, con cui in qualche modo pensare a un cambiamento complessivo della società. Dopodiché, arrivo al punto su cui sono d'accordo con te, fanno un'altra metafora oltre al New Deal degli americani, che dicono che bisogna fare uno sforzo simile a quello della seconda guerra mondiale, come se fossimo in guerra. La crisi climatica è una guerra e quindi dobbiamo affrontare una guerra. È anche suggestivo perché effettivamente in guerra ci fu una riconversione industriale enorme, ma velocissima, perché dovevi fronteggiare la guerra, quindi una riconversione velocissima anche della produzione. Un cambiamento delle abitudini individuali profondissimo, perché aumentarono, adesso non mi ricordo i dati, enormemente l'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi diciamo tutta la vita anche delle persone era cambiata complessivamente perché si era in guerra, e quindi diciamo quindi ha questa sua forza. La sua debolezza ovviamente è pensare a un cambiamento che arriva tutto dall'alto, gestito dallo Stato, ed è una cosa anche questa poco realistica. Naomi Klein, nel suo ultimo libro Mondo in Fiamme, infatti, che comunque è una che sostiene, bisogna dire, negli Stati Uniti, sostiene appunto tutta la campagna dei socialisti americani, Alexandria Ocasio-Cortez, però questa critica la fa in modo efficace e molto chiaramente, richiamandosi al suo libro precedente, appunto Shock Economy, e dice, attenzione, perché i cambiamenti dall'alto in situazioni di panico, l'abbiamo visto in Italia, lo vediamo in questi giorni a Venezia, bisogna fare il Mose, e l'abbiamo visto in altra forma durante i terremoti, ci ricordiamo quelli che ridevano quando crollavano le città perché era il panico, produceva il grande business. Quindi tu hai con una società di questo tipo, organizzata in questo modo, senza mettere in discussione profondamente il modello di produzione, hai la grande probabilità che si utilizzi il panico per utilizzare finte soluzioni che in realtà speculano e producono autoritarismo. Ma le stesse cosiddette politiche green, anche c'è un bel articolo fatto da Giulia Franchi di The Common su questo numero, su l'ENI, che appunto questo sembra che è il principale ente ambientalista di questo paese, dalle pubblicità che si vedono in televisione, e parla continuamente di riforestazione, no? Lo fanno loro, lo fa anche Matteo Renzi, che dice che fa un albero ogni tessera all'Italia Viva. E ho capito, ma giustamente prendono anche, mettono anche il problema, ok, piantare gli alberi sembra una cosa bella, ma dove li pianti? Perché dove sono questi migliaia di ettari dove mandi via persone che ci vivono? E che tipo di ecosistema ricostruisci? Cioè è tutta una cosa che senza una democrazia reale, quindi costruita dai territori, con un attivismo eccetera, e quindi che in qualche modo abbiano una voce in capitolo molto forte in come fai la riconversione ecologica, senza quello l'imposizione produce molto spesso o uno spostamento del problema o una speculazione pure semplice che in qualche modo incide più o meno nulla. E quindi chiudo. I comportamenti individuali, noi abbiamo detto, non sono sufficienti, anche se sono un elemento, cioè gliela ributtiamo in faccia perché vogliamo colpire i colpevoli, quindi anche gli stati, non possiamo dire ok, troviamo una soluzione senza indicare i colpevoli, che sono le grandi aziende, le 100 aziende che fanno il 70% delle emissioni e gli stati che fanno politiche evidentemente a sostegno. Quindi diciamo che la prima battaglia essenziale da vincere sarebbe 18 miliardi all'anno di incentivi che a chi per i comuni d'azienda i combustibili fossili vanno azzerati immediatamente. Questa diciamo sarebbe secondo me la prima battaglia che deve vincere Fridays for Future, cioè deve avere questo obiettivo, quindi non può non porsi l'elemento anche della battaglia con lo Stato, allo stesso tempo deve costruire delle alternative che hanno a che fare anche con i comportamenti individuali, perché è impensabile diciamo salvare il pianeta senza cambiare anche le nostre abitudini di vita, è assolutamente impensabile, oltre ad essere un primo elemento di presa di coscienza del problema, ma anche produrre alternative collettive che comincino a pensare a un modello di produzione differente dall'attuale, che non lo ripensi dall'alto e non c'è il modellino del socialismo da portare con scritto ecco a fianco. e quindi ci vuole sperimentazione di questo tipo. Noi c'è il pezzo per esempio del fatto da compagni e compagni della fattoria Mondeggi, che ha una sperimentazione appunto di agroecologia, quindi di una idea di produzione del cibo completamente differente, e, oltre ad essere non volta al profitto, ma anche sperimentazioni di questo tipo, che ce ne sono piccole e variegate anche in questo paese, ma in giro per il mondo, sono secondo me essenziali. Quindi io sono d'accordo con te che vanno trovate le alternative, proprio perché ti permettono di costruire un'altra idea di società, e parallelamente però la battaglia la devi fare senza illuderti che poi sarà lo Stato, nemmeno Alessandro Caso Cortez, dico da sola, ha risolto il problema, nemmeno quando Alessandro Caso Cortez sarà l'età per diventare Presidente degli Stati Uniti, che sarà fra 7 anni, fra 5 anni. Ok, quindi diciamo, chiudo veramente dicendo la battaglia, ok, su Green New Deal, ma se non la prendono in mano i movimenti, costruendo alternative, costruendo alleanze tra quello che è il movimento Fridays for Future e quello che è anche storicamente le battaglie ambientali, di costruzione alternativa dei comitati territoriali, tu non riesci a spingerle in avanti e neanche a costruire un'alternativa efficace. Alla fine è questo, diciamo, il mix che abbiamo provato a mettere dentro anche al ragionamento sulla rivista, che contiene anche impostazioni in parte differenti fra di loro, è una delle caratteristiche insomma della nostra rivista. Però diciamo l'idea è un po' andare in quella direzione. Grazie a tutti e a tutte per i contributi. Ora direi che c'è un po' di spazio per domande, interventi dal pubblico. Comincia. No, se no parlo ad alta voce. No, parlo ad alta voce. Ci prendiamo tutto il tempo dello streaming, però, se non viene. Ciao a tutti e tutti. Io pongo la classica domanda da $1 milione, tutte proprio facili. Ilva. La questione di questi giorni, e volevo chiedervi insomma una vostra opinione sul grande dilemma tra chiudere e riconvertire o conservare per insomma tutelare i posti di lavoro soprattutto, ma rimandare ancora una volta un problema ambientale più che decennale. Volevo sapere un po' anche come Fridays for Future, che se ci sono dei pensieri in merito e delle connessioni anche sui territori da creare o da far partire. Ecco. Grazie. Altri o altre? Giusto per prendere tempo prima per rispondere a queste che sono messe. Ti cucio il microfono in no, ovviamente non ho una risposta netta su questo, mi pare difficile averne. Ci sono delle cose da dire. Nel numero c'è un pezzo a cui insomma teniamo molto, che prova a raccontare la battaglia per l'ambiente dal punto di vista delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, e questa è una questione fondamentale, perché se ci siamo detti, abbiamo ripetuto tutti oggi anche stavolta, che non c'è la battaglia sulla questione climatica senza un cambiamento radicale della produzione, non si può fare senza i protagonisti chiaramente dei processi di produzione, e quindi è evidente che non si può fare mettendo in contrapposizione, no? la necessità della trasformazione in senso ecologico dei processi di produzione con l'esistenza di ciò che permette, no, di avere un livello dignitoso di vita. Ora il caso specifico è particolarmente spinoso, perché ci siamo detti, cioè, ci sono modi diversi per produrre l'acciaio, ci sono tante cose che si sarebbero potute fare negli anni per rendere sostenibile sia per chi lavora all'interno di quella fabbrica sia per chi ci vive intorno quella produzione. È anche vero che si rischia di arrivare a un punto in cui non ci sono i margini per farlo, sia in termini di quanto costerebbe e di quanto ne vale la pena, sia anche in termini della credibilità di chi lo propone nei confronti comunque dei cittadini, che questa promessa dell'ambientalizzazione se la sentono fare da decenni. E questo ci mette in un crinale strettissimo. Io ripeto, credo che quando si arriva a una dicotomia così netta fra lavoro e ambiente, fra lavoro e salute, vuol dire che abbiamo già perso prima e che siamo ben oltre in qualche modo il piano delle soluzioni positive e al massimo si può ragionare sulle soluzioni meno negative, okay? E su questo però io insomma, non conosco abbastanza chiaramente la questione per avere un'opinione così netta. In astratto io insomma credo che ci sono altri modi di produrre e non è credo che la conversione ecologica dell'economia significhi rinunciare alla produzione in sé. È vero anche questo non si può fare in tutti i casi, in tutte le condizioni, e ci sono ogni tanto dei punti di non ritorno. Ripeto, faccio fatica a valutare chiaramente se il caso del libro in sé lo è. Sicuramente quello che si è creato in quel territorio, ma insomma se ne è parlato anche qui ieri sera, è una cosa che non solo mette in contrapposizione lavoratori e città, ma taglia anche trasversalmente che entrambe queste comunità. È una cosa devastante dal punto di vista sociale e anche proprio per il danno che fa a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, alla necessità di far incrociare giustizia ambientale e giustizia sociale. E, insomma, lo diceva Andrea prima, sono le macerie del capitalismo e sono le macerie anche di un tipo di particolare di capitalismo, del neoliberismo che abbiamo vissuto negli ultimi decenni, di una privatizzazione fatta e fatta in un certo modo, della logica della globalizzazione per cui per non far andare via un'azienda devi essere disposto a cedere tutto, per attrarre un nuovo capitale devi essere disposto a richiedere ancora meno sia sul piano sociale sia su quello ambientale. Insomma, mi sembra il caso di scuola delle cose di cui ci siamo detti oggi. Però chiaramente la questione è seria e la risposta non è facile, anche per le questioni di cui si parlava prima dell'ecosocialismo e di cosa significa ecosocialismo, perché ecosocialismo appunto non significa solo attaccarci sopra la parola. E ogni tanto faccio l'esempio che noi, diciamo, fra compagni e compagne, parlando di questione ambientale, teniamo un po' troppo spesso ad avere la tentazione del cocomero. Il cocomero è rosso dentro e verde fuori, no? Per cui noi siamo sempre noi, e quello che ci interessa veramente è il rosso, no? Però no, ci ricopriamo di verde e crediamo di poter fare la battaglia ambientale così, che possiamo farla dicendo le stesse cose che abbiamo sempre detto, però in qualche modo coprendole su una retorica ambientale e in qualche modo sperando che nessuno scavi troppo in profondo la cuccia e in qualche modo che riusciamo a fare la collettivizzazione dei mezzi di produzione, però è chiaramente in nome della questione climatica. Ora la dico un po' per provocazione, ma per dire che insomma una persona che si ritiene socialista e ritiene che senza questo non c'è modo di affrontare la questione climatica, ma non c'è neanche modo di affrontare la questione climatica se dalla questione ambientale noi non ci lasciamo cambiare il nostro modo in cui vediamo la trasformazione sociale che vogliamo fare, che non è semplicemente appiccicare le parole l'una sull'altra, ma prenderla sul serio, ok, e farle anche mettere in discussione il nostro modo di vedere il mondo. Io sarò breve perché penso sia una questione molto spinosa, delicatissima, che tocca le vite di veramente di migliaia di persone, dagli lavoratori e lavoratrici dell'Ilva fino alle persone che vivono nelle zone limitrofe e che sono state colpite da cancro, tumore, cioè sono morte, ho visto un servizio giusto questa mattina, è allucinante quello che sta accadendo. Io penso che nessuno di noi abbia la soluzione in tasca a questa cosa, tantomeno Fridays for Future, noi non siamo tecnici, non siamo climatologi, non siamo ingegneri, però quello che ho imparato, un po' perché il mondo è paese, questo ce ne siamo resi conto appunto grazie ai momenti di condivisione che abbiamo avuto con attiviste e attiviste dei comitati, di altri nodi di Fridays for Future, è che l'autodeterminazione delle popolazioni, l'autodeterminazione delle persone, delle comunità è fondamentale in questo, perché come è stato il caso di Venezia per me, il Comitato No Grandi Navi, che viene è un proseguimento del Comitato No Mose, i comitati che si stanno battendo contro il TAV, quelli che si stanno mobilitando a Taranto con l'ILVA, come con la rete SNAM, come gli attivisti giovanissimi e giovanissime che abbiamo conosciuto di Fridays for Future Sardegna, che stanno lottando strenuamente contro la riconversione al gas come fonte energetica pulita, quando sappiamo benissimo che non è così. Le persone, gli attivisti e le attiviste, ma le persone, i cittadini e le cittadine sanno le cose, ed è necessario che siano parte della conversazione sulle strategie per combattere questo. Il ricatto lavoro, salute, lavoro, ambiente è un ricatto che ci è imposto dall'alto, che rende la morte inevitabile. La morte oppure il lavoro che però ti uccide. Queste sono veramente forme di ricatto del potere e sono forme di ricatto che vengono combattute da migliaia di persone tutti i giorni. Queste persone non hanno voce, come non c'è la voce del Comitato No Mose, del Comitato No Grandi Navi nei media nazionali ed internazionali, ma esiste ed è necessario, e siamo noi per primi che possiamo rendere questo possibile. Quindi io penso che questo sia un buon punto di partenza. No, io però una parola non di equidistanza la direi, pur non essendo un tecnico o particolarmente un esperto della questione e non avendo letto una serie di report che poi invece sono fondamentali per immaginare i modi e le dimensioni pratiche della roba. Però ecco, diciamo, io credo che tutte le volte che ci sia in mezzo alle rovine del capitalismo, in mezzo alle rovine situazioni sociali e ambientali devastanti, nel dibattito pubblico poi è sempre tutto uguale: dobbiamo salvare i salari, dobbiamo salvare i posti di lavoro, perché poi è questo quello che viene fuori sempre, e questo è un problema enorme. Cioè è giusto che i lavoratori debbano essere coinvolti, però voglio dire, se c'è da prendere una presa di parola sul fatto specifico, la prima roba da fare è chiudere l'ILVA. Cioè nulla si può fare senza chiudere l'ILVA. Poi si può fare un dibattito su che cosa vuol dire la riconversione ecologica, ci sono degli studi che dicono che comunque ci vorrebbero 200.000 posti di lavoro per andare in quella direzione, ci sono tante alternative di reinvenzione del territorio, e su questo chiaramente non è che siamo noi che abbiamo le idee, ce l'hanno i comitati locali, ce l'ha chi porta avanti quelle questioni ormai da 10 anni. Però ecco, insomma, io in questa sede una parola non di equidistanza, ma che dice: bisogna essere materialisti in un altro modo. Noi siamo cresciuti con l'idea di un materialismo agganciato al rapporto sociale, e sono cose fondamentali, in cui la questione del salario, la questione del reddito, o in cui l'antagonismo di classe attorno alla distribuzione o alla produzione economica ha in qualche modo formato, no? La storia della lotta di classe. È stare un po' con la dimensione ecologica, secondo me, ci deve anche portare ad essere materialisti in un altro modo, a sentire quello che noi siamo in relazione a delle dimensioni della vita rispetto alle quali non vogliamo essere separati, non vogliamo essere separati da dell'aria buona, non vogliamo essere separati da della terra che sia capace di generare vita, non vogliamo essere separati da delle forme di interdipendenza collettiva che ci danno piacere, ci danno forza. Io credo anche che su questi terreni il rapporto tra le dimensioni femministe, transfemministe, movimenti ecologisti può andare avanti e trovare delle strade, perché questo è un altro modo di essere materialisti. Questo non significa che i soldi non valgono niente o che non dobbiamo batterci per prenderli attraverso il reddito garantito, tutta la rendita che ci succhiano, non sono discorsi alternativi. Però ecco, in una dimensione di precipitazione come quella di Taranto, io mi sento di stare con chi dice che quella fabbrica di morte deve chiudere. Non c'è una domanda, volevo più condividere la riflessione. Vabbè, innanzitutto da Tarantino sono d'accordissimo con Andre, cioè insomma, dopo 70 anni di monocultura dell'acciaio, cioè, insomma, anche immaginare delle alternative si immaginano anche praticamente, concretamente, con la chiusura potrebbe essere anche un inizio, a prescindere che tante alternative sono già in campo a tanto, sia politicamente che culturalmente, soprattutto dal basso. Però in realtà la mia riflessione era più su dei discorsi di retorica che avevate detto, che secondo me soprattutto per anche una situazione un po' più territoriale, direi anche quasi nazionale rispetto a un argomento globale come il clima e l'emergenza ecologica, che è quello che avete detto prima sulla retorica dell'emergenza, che secondo me invece è un argomento centrale anche nell'immaginarsi concretamente quello che può succedere da un punto di vista sociale e politico in Italia, nel senso che quello che è stato detto prima, che di solito l'emergenza, appunto, cioè si è ribaltata la situazione politica sull'emergenza, secondo me in Italia abbiamo ancora pochi esempi di come invece funziona il capitalismo nell'emergenza, cioè quello appunto che dicevi anche prima su Naomi Klein, sulla shock doctrine o sulla maggior governabilità delle popolazioni e delle comunità in stato di emergenza. È una cosa centrale adesso dei processi capitalistici, e forse in Italia ce ne siamo resi conto solamente con il terremoto, e anche lì invece se ne potrebbe parlare tantissimo, perché la gestione del terremoto post-terremoto dell'Aquila non è la stessa della gestione del terremoto dell'Italia centrale, anche se gli effetti ci sembrano uguali, cioè nel senso anche lì servirebbe uno studio molto approfondito, molto attento per capire come funziona quello che è diventato anche una corrente di studio ormai, il capitalismo dei disastri, no? Cioè studiare come funziona, come determinati flussi economici, politici ridisegnano il territorio a partire da delle catastrofi. E questo lo dico non in un'ottica negativa per il futuro, ma per immaginarsi concretamente e politicamente come combattere determinate situazioni. Questo avverrà sempre di più, cioè quello che è avvenuto ad esempio nel terremoto del centro Italia con non solo con la ricostruzione, ecco, ad esempio uno degli argomenti principali sul terremoto è la ricostruzione, non è l'unica cosa. Sul terremoto ad esempio del centro Italia c'è stato dei grossi studi, anche cito uno dei collettivi che ha fatto uno studio approfondito sulle politiche post-sisma, che è Emilio Di Treveri, che ad esempio ha studiato gli effetti del post-sisma da un punto di vista dell'agricoltura e dell'allevamento, no? Cioè di come la deterritorializzazione delle comunità che prima abitavano in quelle zone a partire dall'emergenza ha permesso a dei grossi monopoli economici di accaparrarsi territori che in futuro possono essere oggetto di business in una situazione in cui l'agroalimentare sta diventando un settore di spinta di tutta l'Italia, ed in una crisi industriale ci sono dei settori come l'agroalimentare e il turismo che stanno diventando invece di avanguardia come settori economici in Italia, nel ripensare anche una politica economica anche capitalista. Quindi in questo senso qui secondo me ci troveremo sempre di più in degli stati di emergenza in Italia, lo dico anche a fronte di conoscere, per quello dicevo all'inizio come premessa, un territorio da un punto di vista più locale. Ad esempio il dissesto idrogeologico sarà una cosa che è collegata appunto al cambiamento climatico, che peggiorerà sempre di più. In Italia abbiamo un territorio che per l'80% è a rischio di dissesto idrogeologico, abbiamo delle zone sismiche abbastanza imponenti, cioè è molto probabile che invece di grossi disastri ce ne saranno sempre di più, e a questi saranno collegate delle politiche che appunto come si diceva aumenteranno probabilmente l'autoritarialità, cioè ci saranno dei flussi economici incontrollati e comunque una governabilità delle comunità e dei territori che rischiano di metterci, diciamo, da un punto di vista passivo. E su questo discorso qui volevo ricollegarmi anche a quello che diceva Andrea sulla capacità anche di inventarsi politicamente, che è collegato sempre a questo discorso un po' territoriale. Penso che in Italia invece ci siano tantissimi movimenti che stiano ritornando a considerare appunto un aspetto dell'ambiente, diciamo, più naturale o più rurale, cioè penso a una delle realtà che da questo punto di vista secondo me è paradigmatica in Italia, che Andrea conosce molto bene, che è Mondeggi, la fattoria resistente di Mondeggi vicino Firenze, che ha intrapreso un discorso da anni di relazione fra modello urbano e modello rurale che secondo me deve essere centrale anche nel ripensare politicamente, appunto, oltre il feticcio di aggiungere l'eco sulla parola socialismo, di come si possono rimmaginare delle relazioni sane, politiche e concrete con il territorio che ci circonda. Quindi questo era semplicemente per dire che uno degli altri rischi, al di là del discorso sulla shock doctrine o comunque sulla la retorica dell'emergenza, che secondo me coinvolgerà sempre di più la politica anche nazionale, c'è anche un discorso di capacità di inventive che sono all'attivo, ecco, che stanno riconsiderando una serie di relazioni, soprattutto tra il modello urbano e un modello rurale, che ci possono dare delle prospettive, delle linee di ricerca e di lotta. Ciao, io vorrei avere un vostro commento su due questioni che sono strettamente legate, che sono anche dal punto di vista sociale molto discusse. Uno è la questione della sovrappopolazione e su come per esempio anche voi Jacobin vi ponete a riguardo e su come si può legare delle politiche di gestione delle nascite con la questione sociale, sull'uguaglianza sociale, su come le due cose possono andare insieme e collegato a questo anche il fatto dell'alimentazione, su come ci alimentiamo, sulla parte dell'agricoltura, sull'allevamento e soprattutto in Italia, su come possiamo andare a cambiare la mentalità italiana che è strettamente legata, divinizziamo il cibo, per noi il cibo è un must da divinizzare che non si può toccare, se andiamo a parlare con noi italiani la carne non si può toccare per la maggior parte delle persone. Quindi se tu vuoi andare per un discorso anche dal punto di vista ecologico, bisogna andare anche a vedere per la produzione di carne, quindi da dove arrivano i mangimi, su come si produce e sulla carbon footprint del processo produttivo. Anche come possiamo fare in Italia comunque cercare di risolvere questo problema, cercare di cambiare le nostre abitudini alimentari e consumistiche. Molto, molto breve, spero. Sono, per quanto precario, sono un insegnante di scuola superiore, ho una quarta superiore, quindi posso plagiare le menti del soggetto rivoluzionario di questo momento, cioè i giovani che vengono tanti decantati. Poi non li plagio effettivamente, però ho deciso di non fare gli Alfieri e Parini quest'anno per parlare del climate change e odio Alfieri e Parini, quindi le due cose vanno di pari passo. No, volevo solo mettere a disposizione, la rivista ha almeno due articoli, se non sbaglio, che parlano della nuova mobilitazione, che è molto caratterizzata da questa, per età, diciamo, da questo motivo. Volevo aggiungere forse un paio di dati, nel senso che nella discussione con loro, visto che appunto le faccio abbastanza spesso, ho visto una serie di blocchi. Hanno, perlomeno quello che ho visto io, hanno perfettamente capito cosa vuol dire che non è colpa loro. Ecco, questo l'hanno perfettamente capito, che le responsabilità sono andate a cercare altrove, anzi tutte le ragazze e ragazze con cui ho parlato, la cosa che hanno ripetuto diverse volte è che palle, adesso è la nostra responsabilità, pare che sia la nostra responsabilità quando il danno l'ha fatto effettivamente qualcun altro, ma me l'hanno detto anche nelle aule in cui andavo a fare supplenza, quindi ci stavo solo un'ora. La cosa, i blocchi che ho visto, quelli un po' maggiori, sono stati prima di tutto un certo senso di nichilismo, cioè nel momento in cui si capisce perfettamente che le cose non funzionano a un livello, diciamo, più alto della società, come cavolo facciamo? Non possiamo fare niente, al massimo ci prendiamo le bottigliette non di plastica, c'era anche il pezzo di Wolf che ne parlava molto bene, però non risolviamo la questione. Di lì si fa veramente fatica a muoversi e mi chiedevo, visto che abbiamo anche un esponente di Fridays for Future, se si riescono a fare, soprattutto con i più giovani, dei passi con le discussioni, con le assemblee, dei passi in avanti. Anche perché l'altro grande blocco che vedo io è nel momento in cui si discute il passaggio successivo, che è quello minimamente organizzativo, facciamo qualcosa e facciamolo in più di uno, è lì, ma come in ogni altro tipo di movimento si vede una difficoltà estrema. E da questo punto di vista mi ricollego a quello che diceva Andrea poco fa, in effetti tutti i movimenti femministi qualcosa da questo punto di vista da insegnare ce l'hanno anche i movimenti, i vari movimenti Notav o altri movimenti territoriali, ce li hanno anche i grandi movimenti, chiamiamoli ecologisti, in tutto il mondo, però mi viene un po' difficile da spiegare ai miei studenti che si devono organizzare come gli indigeni dell'Amazzonia contro che hanno ottenuto una costituzione all'epoca abbastanza all'avanguardia, però ecco, quel passaggio lì in effetti a questa generazione, mi verrebbe da dire, ragionando in piccolo, ma in realtà mi sembra un problema che, se allarghiamo un po' la lente, vediamo su tutte le altre sfere di movimento, e mi chiedo se si stanno facendo dei passi avanti o se ci sono delle altri tipi di innovazioni in territorio italiano. Ciao. Volevo fare un contributo che vuole anche dall'Assemblea Nazionale di Nulla di Meno, perché qualche settimana fa c'è stata l'Assemblea Nazionale ed era a Napoli, e noi abbiamo deciso di tenere un intero filone di discussione che fosse sulle questioni dell'ecologia in una prospettiva, diciamo, politica e transfemminista, pensando anche, diciamo, che non era perché è l'hype del momento, no, della discussione, ma perché non si può venire a Napoli a parlare di autodeterminazione, di corpi, di salute, senza tenere presente questa questione, perché ci sono state delle comunità sapienti che sono state, diciamo, circa 20 anni a resistere all'emergenza rifiuti. Cioè, abbiamo tenuto pure Bertolaso travestito da militare, De Gennaro, cioè abbiamo conosciuto bene, no, proprio, cioè, sui corpi nostri che cosa significasse dover costruire in continuazione dei discorsi contro la questione della gestione dell'emergenza, che era invece un'eccezione costante su come venivano governati i nostri territori. Ed oggi la stessa questione anche a Napoli si propone, diciamo, il Green New Deal a Napoli è una questione, cioè c'è tutta la questione delle bonifiche, che sono le stesse imprese rinominate che hanno costruito i templi, no, del saccheggio territoriale, della disoccupazione, reinvestono sul territorio parlando di bonifiche, sempre, diciamo, mano militare, militarizzate, escludendo le comunità sapienti che hanno costruito registri di tumori al posto dello Stato. Cioè, qualche settimana fa, sull'incidenza dei tumori, la regione risponde: faremo una nuova campagna contro il fumo giovanile, cioè per rispondere ai morti, cioè agli Antigoni che continuano a portare bare bianche, no, che non vengono riconosciute come politiche scellerate che sono state fatte sul territorio. Quindi, insomma, noi su questa questione diciamo, ce ne siamo un po' ragionata anche proprio in una modalità frazzale, no? Cioè, se ci sono dei corpi che nell'ambiente domestico sono esclusi dalla possibilità dell'autodeterminazione, dalla violenza economica, dal patriarcato e tutto, allo stesso modo, diciamo, questa violenza si riproduce su un piano scalare con la violenza dello Stato che esclude intere comunità dalla possibilità di poter autodeterminare le scelte sul territorio. E quindi parlavamo, diciamo, di dobbiamo uscire, diciamo, esattamente come si fanno i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, dobbiamo fare percorsi di fuoriuscita dall'emergenza, in modo tale da poter, diciamo, perché è vero che dalla violenza si esce con una scelta, ma si esce quando ci sono intere comunità a prendersi carico del tuo percorso di fuoriuscita dalla violenza. E crediamo che, per esempio, tutto il discorso che si fa dello sciopero dei consumi sia ancora molto, cioè anche dentro, diciamo, noi ci stiamo ponendo in continuazione, no, la questione dello sciopero, esattamente come se la deve porre, cioè come se la pone Friday for Future, no? Crediamo che non si possa continuare a fare in termini di scelte etiche ed individuali, ma soltanto nel momento in cui noi riusciamo a costruire delle comunità che vengono riconosciute per i saperi che hanno prodotto sui loro territori e su quello, e costruendo dei vincoli di fiducia collettivi che ricostruiscano le collettività nel momento in cui sembra che, diciamo, l'emergenza climatica stia distruggendo i territori ancora prima che delle comunità, invece sono le comunità ad essere affette. Quindi come ricostruiamo? Anche tenendo presente per esempio l'esperienza bolognese, no? Cioè noi a Napoli abbiamo parlato molto, no? Per esempio che ruolo hanno avuto i mercati anche nella difesa degli spazi sociali, no? Perché esistono, diciamo, in quel caso dei vincoli di fiducia che vengono costruiti nella collettività, no? E quello poi è il compostaggio sociale che permette la trasformazione in una ottica che è, diciamo, non identitaria, non individuale, ma di come trasformiamo noi il mondo che ci sta intorno. Salve, mi ha stimolato a intervenire l'insegnante che è venuto proprio prima, perché io sono un genitore del movimento per la scuola pubblica, quella, insomma, dai tempi della Gelmini, anche con la scuola e via dicendo, no? Sono una faccia di vita tutto ignota. Però ecco, mi sembrava molto importante il discorso quello sulla responsabilità che aveva fatto lui, e però volevo anche ribaltare, nel senso che abbiamo ragionato con i genitori insegnanti sulla tendenza tipica degli anziani, mia figlia scoppia a ridere quando dico degli anziani, no? Ma noi diversamente giovani rileviamo che una tendenza molto tipica, proprio quando si parla di tutte le questioni di un'azienda della popolazione adulta, è quello di dire, applaudire, no? Bravi giovani, viva Greta, largo giovani, invece il discorso deve essere quello. Come, cioè, avete fatto il macello e adesso ve ne lavate le mani? Quindi ecco, una domanda era, questo approccio è apprezzato, gradito, cioè sono consapevoli in generale, chiaro, cioè, avete il pulso maggiore, che non è una bella cosa che uno ti dica largo ai giovani, perché significa anche io me ne lavo le mani, cioè noi invece, voi non diversamente giovani, la mia nostra, insomma, nel gruppo scuola, che avevamo già ambientalismo da basso prima ancora, quindi come un gruppo eravamo presenti in dovete pretendere la responsabilizzazione di chi i danni l'ha fatti, una generazione, come posso dire, io sono sempre stato socialista e anche appunto socialista e calinista, ma ecco, insomma, quindi volevo sapere com'era la questione, perché, anche perché mia figlia, come dire, mi ha cacciato dopo che mi ha visto correre col casuo insieme a lei, ma, scherzando adesso dico, no? Insomma, lascia correre a me, no? Nel senso, ecco, tu magari ho un po' di dibattito intellettuale, quindi ecco, c'ho meno il polso di come avrei potuto se avessi continuato a correre nei Friday for Future. Grazie. Vabbè, io raccolgo alcuni, gli spunti sono stati tanti, molti sono stati veri e propri interventi che tra l'altro in larga parte condivido. No, volevo solo dire una cosa rispetto alla questione della sovrappopolazione, che è un elemento su cui c'è un articolo di Daniel Tanuro che in realtà riporta dei dati, perché credo che anche quello sia uno degli elementi che svia quando si dice il problema, è come quando si dice il problema è l'attività dell'uomo, e poi si va a vedere sono 100 imprese, un po' vaghe, diciamo, di attività dell'uomo, quando poi sono 100 imprese che fanno il 70% delle emissioni. Allo stesso tempo la questione della sovrappopolazione, qua sono riportati dati e dicono la popolazione mondiale è aumentata di 2,7 volte tra il 1950 e il 2000, ma nello stesso periodo il consumo di energia primaria è cresciuto di 5 volte e mezzo. Il trasporto di merci si è moltiplicato per 7, il consumo di fertilizzanti si è moltiplicato per 16, il PIL si è moltiplicato per 10. Le disuguaglianze sono aumentate del 12%. Quindi, diciamo, la questione della sovrappopolazione, diciamo, l'aumento delle emissioni, eccetera, è una cosa totalmente sproporzionata rispetto, quindi non c'è questo legame così forte. Quindi il punto rimane il modello produttivo e sociale da provare a aggredire. Ma io credo, e su questo brevemente mi collego invece all'altra riflessione che faceva prima il compagno insegnante, rispetto a l'individuazione del nemico, cioè ok, si riesce a far arrivare bene anche l'elemento del non è colpa vostra, che c'è qualcos'altro che... Però il punto è la costruzione dell'alternativa ed è l'elemento effettivamente più difficile, è il problema di questa fase storica. Noi il prossimo numero di Giacomo in Italia, lo anticipiamo, sarà sulla questione dei populismi. Per questo numero a me è capitato di intervistare, ho avuto la fortuna di intervistare lo storico Enzo Traverso, e proprio su questo elemento lui identificava bene l'elemento centrale, cioè la difficoltà, l'esplosione anche dei vari populismi è profondamente legata alla difficoltà di immaginarsi un'alternativa dopo la sconfitta del socialismo reale. Ossia, anche citando i movimenti più importanti, più forti, più dirompenti degli ultimi anni, anche le rivoluzioni arabe che sono riuscite a buttare giù dittature sapevano benissimo chi erano i loro nemici, tanto che li hanno buttati giù, ma con cosa sostituirli? Era tutto un altro paio di maniche. Lo stesso movimento Occupy Wall Street ha avuto anche la sua efficacia molto forte, anche di slogan, di dire noi siamo il 99% e voi siete l'1%, non vogliamo la società mercificata che ci state proponendo, ma il problema è costruire l'alternativa. È il problema del nostro tempo, la ricostruzione delle utopie, la ricostruzione, diciamo, di immaginazione di una società alternativa, e quindi un problema enorme. Da questo punto di vista io credo, come dicevo prima, che l'elemento così radicale dell'emergenza climatica, quindi anche quell'elemento emergenziale su cui partivamo, e il fatto stesso che sull'elemento ambientale, la produzione del cibo, l'agroalimentare eccetera, è un elemento su cui in fondo ci sono più sperimentazioni alternative, piccole, più o meno piccolissime, più o meno significative, eccetera, però c'è tantissima sperimentazione che ti permette anche di produrre veramente un'idea alternativa di società, o quantomeno di alludere, cioè di avere degli esempi su cui aggrapparti e ricostruire, perché ricostruire un orizzonte, quindi un nuovo socialismo che sia eco, ma sia anche un nuovo socialismo, è un elemento centrale quando dici il problema è la produzione e ci devi intervenire. Poi è chiaro che devi anche ottenere una serie di risultati immediati, provando a andare di passo passo in qualche modo per poi costruire l'alternativa più complessiva, radicale, di cui però c'è urgente bisogno. Però diciamo, rompere questa gabbia per cui non è possibile, ma ancora non c'è alternativa, non è alternativa, diciamo, è ancora presente, ancora non riesce a uscire da quello che Fischer definisce il realismo capitalista, è l'urgenza di cui si sono imperniati tutti i movimenti, e quindi è la sfida anche di questo movimento globale Fridays for Future, tutta da giocare, tutta da provare a vincere. Noi, diciamo, uno dei motivi in cui ci spendiamo tutte queste energie per fare delle riviste è perché pensiamo che ovviamente senza i movimenti non si produce nulla, ma l'elaborazione di idee ce n'è bisogno, che se riesce a entrare in comunicazione appunto con i movimenti che concretamente costruiscono le alternative, per produrre effettivamente idee per un'altra visione complessiva di società. Sì, io provo ad essere breve, anche perché spero di non essere troppo caotica, perché comunque gli stimoli che sono venuti sono di varia natura e richiedono una risposta complessiva. Io provo a muovermi un po' ragionando insieme a voi. Quello che veniva detto prima, adesso ovviamente non so i nomi, però io penso che mi ricollego un po' a quello che ha detto Lorenzo sul fatto che percepiamo, cioè il modo in cui la narrazione che noi dobbiamo resistere e sconfiggere è quella appunto dell'inevitabilità, dell'ineluttabilità di questa crisi climatica che ci piomba addosso e su cui c'è talmente tanto da fare che non si può fare nulla. Le risposte che vengono da Fridays for Future, e ovviamente parlo a livello personale, comunque porto l'esperienza della mia assemblea, ma il Movimento per la Giustizia Climatica è fatto di tante voci, tanti corpi, e Fridays for Future è una parte di questi, sta provando ad elaborare delle risposte, e queste risposte sono molto semplici. Non ci sono grandi ragionamenti da fare a livello collettivo. Quello su cui dobbiamo muoverci è la fuoriuscita immediata dal carbon fossile e l'abbandono del modello grandi opere. Queste due cose solo queste due cose insieme producono devastazione ambientale, inquinamento, surriscaldamento globale. Già solo lo combattere, resistere queste due forme, che sono una parte del nostro, di come si articola il nostro modello di sviluppo, da sole potrebbero portare risultati enormi. E quello che noi abbiamo, quello che noi stiamo provando ad elaborare, e qui mi ricollego un po' a quello che diceva il signore su Fridays for Future e la responsabilità giovanile, e anche quello che diceva l'insegnante sul nichilismo che vede fra i giovani. Io rispondo al blocco col blocco. Quello che abbiamo sperimentato, l'esperienza che abbiamo portato a casa, non solo con il Venice Climate Camp, ma anche con i giri per tutta Europa che abbiamo fatto durante questa estate, per i Climate Camp promossi da Ende Gelände in Germania, Reclaim the Power in Inghilterra, Jasmina Limit in Repubblica Ceca, arriveremo in Spagna, in Portogallo, ci parlano di Extinction Rebellion a Londra, i blocchi hanno bloccato 5 ponti, Ende Gelände blocca 2 volte l'anno la più grande miniera di carbone d'Europa, e l'ho vista con i miei occhi, sono 64 chilometri di deserto dove prima c'era una foresta bellissima, si chiama la foresta di Ambach. Il blocco, il nichilismo, la depressione, il senso di arrendevolezza di fronte ad una cosa enorme, gigantesca, è la rabbia, ma non la rabbia distruttiva, la rabbia di chi vuole cambiare le cose. E questo, la cosa più energizzante, quindi parlo a titolo personale, la cosa più energizzante, più forte, più intensa che io ho sperimentato è stata quella di essere in prima linea a bloccare i responsabili, che hanno un nome e un cognome. Abbiamo occupato il red carpet durante la mostra del cinema di Venezia, siamo stati a Napoli durante la seconda assemblea costituente di Fridays for Future, abbiamo bloccato per qualche ora uno stabilimento della Kuwait, raffinerie, sedi di centraline, vengono bloccati costantemente dei movimenti per la giustizia ambientale, climatica e sociale. E questi sono questi tipi di blocchi stradali, il blocco delle città, il blocco le occupazioni, i die-in che sono stati fatti, due attivisti di Fridays for Future Padova sono stati denunciati 2 settimane fa per un die-in a Zara, perché sono entrati dentro Zara, hanno fatto un die-in, hanno fatto un intervento, sono stati denunciati dal questore. Ecco, tutte queste cose portano un senso di trasformativo ed energizzante che i giovani, che tanti giovani che magari vengono agli scioperi globali, che attraversano le piazze, che parlano a scuola fra di loro, è necessario che li provino, perché questa crisi climatica, è stato detto più e più volte, ha dei responsabili e vanno individuati i colpevoli e vanno fermati con tutti i mezzi a nostra disposizione. La disobbedienza civile pacifica ci ha insegnato tantissimo su questo, storicamente, e sono momenti profondamente trasformativi, non solo perché cercano di intervenire sulla realtà, ma perché portano un cambiamento anche a livello personale, che ti fa domandare chi sei e che cosa vuoi e come fare a cambiare il mondo. Certo, non è sufficiente, oltre a cambiare le cose e a tacciare i responsabili e ad individuare un nemico, è necessario anche costruire delle alternative. E qui mi ricollego a quello che diceva il ragazzo poco fa sull'agroindustria, sulla produzione di carne, eccetera. Io ovviamente non ho delle conoscenze per cui posso fare un'analisi a livello sistemico. Però quello che vedo io e quello che stiamo sperimentando è che non ci sono mezze misure, la produzione, il consumo di carne, cioè il motivo per cui la foresta amazzonica è andata a fuoco per colpa che sono stati incendi dolosi, è stato per dare spazio a terreni che servono per gli allevamenti intensivi, per gli allevamenti intensivi, per la produzione di carne che poi viene distribuita in tutto il mondo. Quello che abbiamo, veramente vedere Venezia sotto acqua e sapere che questo è dovuto a dei cambiamenti di cui anche noi siamo responsabili a livello individuale, perché è così, necessita un cambiamento da parte nostra, che non è facile. Io per prima mi sto mettendo in gioco su questo, ho ridotto drasticamente il consumo di carne, è una cosa che dovremo fare tutti, prima o poi, perché non, questa crisi non aspetta nessuno, c'è oggettivamente un sovraconsumo di carne, c'è oggettivamente un sistema produttivo che riguarda, un sistema di consumo che è anche nostra responsabilità, abbiamo fatto degli interventi su, e non riguarda solo l'alimentazione, riguarda il fast fashion, come cosa compriamo, come lo compriamo, Amazon, la logistica, i diritti dei lavoratori, insomma è necessario anche da parte nostra fare una seria analisi dei modi in cui anche noi contribuiamo nel nostro piccolo. Questo non toglie assolutamente niente alle battaglie che noi dal basso dobbiamo portare avanti per cambiare radicalmente questo sistema. No, così diciamo un po' sulla parte vostra. Io sono convintissimo che le dimensioni ecologiche saranno un vettore di soggettivazione di cui siamo solo all'inizio, da qua ai prossimi decenni. Cioè queste saranno questioni attorno alle quali ci sarà una domanda di presa di parola, di sperimentazione sempre più largo e sempre più trasversale anche. E quindi sono molto d'accordo con un approccio, diciamo, frattale alle questioni, o anche specifico. Si parlava prima di compostaggio, per compostare ci dice Don Haraway dobbiamo extinguish the trouble, no? Che vuol dire proprio stare anche dentro al problema situato, cioè a volte vuol dire anche un po' uscire dalla politica come astrazione e un po' trovare dei ripiegamenti continui a partire da delle questioni specifiche. Faccio un esempio molto banale, no? Sono molto contento come sta andando tutta la dimensione del Fiorentino, tra Fridays for Future, movimenti della piana e dunque contro l'aeroporto e contro l'inceneritore, movimenti sui beni comuni e dunque mondeggi, movimenti contadini, dunque costruzione di nuove reti, città e campagne su un altro modo di produrre, distribuire e di costruire sapere attraverso la circolazione del cibo. Ecco, tutte queste dimensioni qua, poi in modi inaspettati, sempre con una logica dell'esperimento, del piccolo esperimento, si ripiegano continuamente tra di loro. Cioè, che succede? Sono proprio esempi concreti, no? Se un po' di ragazzi di Fridays for Future vengono dalla zona di Pontassieve e lì c'è un progetto di transition, questo progetto di transition vede lì dentro un'energia e si fa un mercato contadino settimanale in quel posto lì. E poi cosa succede nella piana, no? Cosa succede nella piana se quella dimensione radicata che ormai va avanti da un decennio, diciamo, tipica comunque, diciamo anche che dopo quella merda del 15 ottobre in Italia ci sono state due dimensioni veramente innovative e interessanti. Una è stata nulla di meno e l'altro sono questi movimenti che dalla Val di Susa alla Sicilia da decenni costruiscono delle forme di comune e di lotta sulla questione dei territori. Questi strati qua, continuamente riattivati con strati nuovi, possono creare delle sperimentazioni. Ecco, in qualche modo questa è una logica di ciò che può essere, è una logica di ciò che può essere in cui però non è scalabile, cioè non può essere uguale dappertutto in tutti i territori dello stesso modo. Questa sua non scalabilità non è un limite, perché staying with the trouble significa fare l'esperimento situato tutte le volte, correndo anche dei rischi, no? Correndo anche dei rischi che sono appunto i rischi anche di prendersi a cuore una questione, di costruire una campagna alla volta, ma saper riconoscere come, no, quell'elemento di campagna anche specifico sta insieme, quindi può risuonare con un sacco di altre rivendicazioni e sperimentazioni. Ecco, io penso che questa logica, che è una logica della costruzione di fiducia, è una logica dello scambio fluido, è una logica dell'esperimento, possa essere uno dei modi attorno ai quali ondate di grandissima partecipazione come Fridays for Future si possono fare anche tanti esperimenti. Cioè, in qualche modo pensare anche a un rapporto tra, diciamo così, termini un po' classici, movimenti di massa, non solo nella dialettica claim dei movimenti, Stato e dunque, diciamo, risposta normativa alle domande che vengono dal basso, ma anche come questa nuova scoperta della politica, come questa nuova scoperta della politica piano piano si declina in tanti esperimenti di vita e di costruzione di collettività. E questo riguarda un miliardo di questioni, perché un miliardo di questioni attraversano le questioni ecologiche, no? E quindi magari uno si sente particolarmente preso dalla questione della sovranità alimentare e costruisce delle reti di rapporti con i contadini, va dai gas e dice vabbè facciamo una community support, costruisce un intervento in un quartiere attorno al mercato, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, insomma. Sulle ultime paio di questioni che erano state sollevate. È stata citata la questione del turismo, no? In questa cosa della transizione, eccetera. Insomma, poi su questo stiamo facendo anche dei ragionamenti collettivamente, ma do un punto di vista personale. Diciamo che la persona che da 10 anni vive a Firenze, ho sviluppato un punto di vista abbastanza piuttosto radicale sulla questione del turismo e in particolare sulla irresponsabilità o logica truffaldina con cui è stata contrabbandata la logica della cultura del turismo come alternativa all'industria. Questa è una puttanata che è stata raccontata in cui molti anche nei nostri mondi in ottima fede sono caduti, che si può digerire solo nascondendo il portato di devastazione sociale e ambientale che il turismo si porta dietro, esattamente quanto l'industria, se non di più. E quindi va ragionato che non c'è ciclo economico che è di per sé privo di impatti sociali e ambientali, ma è solo il ripensamento di chi è il protagonista del ciclo economico, e cioè se sono le persone invece dei profitti, che può determinare come viene sviluppato. Vivo in una città in cui buona parte dell'industria, non tutta, Andrea citava la Piana, ma insomma buona parte dell'industria è stata smantellata, ma arriva una quantità quotidiana di voli aerei, pullman e navi da crociera attraverso Pisa, che producono molte più emissioni di quello che produceva quando esisteva l'industria in quella città. E quindi la deindustrializzazione ha portato sulla trasformazione del lavoro, poco lavoro e lavoro povero, ma anche una devastazione ambientale totale. È un cancro che non viene da un alto forno ma viene dal motore di un aereo, non è più smart per questo. E credo che se noi non, siccome questa è una cosa che nel mainstream è completamente, no, vista dal punto di vista diverso, ma anzi la logica proprio anche green è quella della cultura del nostro petrolio, no? O noi sappiamo dire apertamente queste parole, o è molto difficile che riusciamo a rispondere su questo. Dico un'ultimissima questione sulla questione che veniva sollevata appunto dall'insegnante. Individualizzazione, nichilismo, difficoltà all'organizzazione, eccetera. Viviamo ormai da decenni in una fase di individualizzazione. È un trend storico, insomma, le cui cause ora sono le 6:30, non mi metto a discutere, ma è un trend storico e quindi questo significa materialmente non solo meno strumenti a disposizione delle persone per l'organizzazione collettiva, ma anche meno disponibilità da parte delle persone a subordinare la propria identità individuale a una collettiva, okay? A riconoscersi come parte di qualcosa più grande, no? Dopo la fine delle grandi narrazioni, e quindi anche a sviluppare un senso di appartenenza collettivo e una dimensione collettiva dell'azione. Dall'altra parte, cioè quello che abbiamo visto in questi mesi con gli scioperi del clima, ci dice che ci sono delle cose che ripropongono il tema dell'organizzazione dell'azione collettiva in questo contesto. Nell'articolo di apertura sottolineiamo il fatto che la stragrande maggioranza degli intervistati nelle piazze italiane diceva: per me oltre l'80% rispondeva sono d'accordo col fatto che la via principale per rispondere alla questione climatica è il cambiamento individuale degli stili di vita, ma allo stesso tempo era lì in piazza, proprio per dire che le due cose non sono in contrapposizione, con tutti i caveat che abbiamo detto prima sul fatto che non è vero che basta cambiare lo stile di vita per avere un impatto, ma il cambiamento dello stile di vita a livello individuale è molto spesso una via d'accesso all'azione collettiva. c'è una disponibilità a mettere in gioco se stessi, le proprie scelte, eccetera, che molto spesso diventa azione collettiva. Faccio un esempio molto concreto: questa cosa di scendere in piazza con i cartelli, che la gente si scrive il cartello, ognuno per conto suo, e poi va in piazza, e poi si sviluppa addirittura quasi una competizione, no? Con chi ha il cartello più divertente, provocatorio o anche di cattivo gusto, per finire fotografato ai giornali, eccetera. Da chi è abituato a passare ore in assemblea per dire cosa è scritto sullo striscione, perché dietro a cui siamo tutti insieme, è una logica completamente diversa che sa di individualismo e di esibizionismo. Però se ci pensiamo bene, questa è esattamente l'azione collettiva nell'epoca dell'individualizzazione, in cui certo c'è un bisogno di espressione individuale delle persone, libera, creativa, eccetera, che è sempre più difficile incanalare in canali organizzati, però allo stesso tempo questa è una dimensione di piazza in cui ritrovo una sua cosa collettiva, perché mi scrivo il mio messaggio a casa ma lo porto in piazza con tutti gli altri, ok? E quindi io credo che insomma molte delle cose che sono interessanti a vedere nei movimenti sono sempre che sono figli della tradizione della propria epoca, ma hanno una capacità profetica di vedere in che direzione che stiamo andando. E credo che ci sia insomma, in qualche modo, una ricostruzione e azione collettiva nell'epoca dell'individualizzazione, che è una cosa di cui tener conto. Su questo, visto che... No, un piccolo appunto, perché ho sentito molto dire oggi la frase del è importante capire che non è colpa nostra, eccetera, di non colpevolizzarsi e così. Però secondo me dobbiamo stare anche attenti un po' a questo discorso, perché come dire, anche nel facciamo un paragone storico, ok? Il colonialismo di sicuro non è colpa mia, non è colpa tua, ma tutti noi abbiamo in qualche modo avuto il privilegio di godere della ricchezza che il colonialismo ha portato all'Europa, bene? Così come il maschile gode di un privilegio che gli viene da secoli di storia, no? Quindi stiamo attenti nel dire non è colpa nostra, sì, non è colpa nostra, ma siamo cresciuti nel privilegio di chi in qualche modo ha potuto godere delle... Dall'altra parte ovviamente ci troviamo di fronte alla catastrofe che questo privilegio ci sta comportando, però siamo anche cresciuti in un privilegio rispetto ad altre persone di altre parti del mondo. Quindi secondo me non è una questione di, cioè, questa di discussione, diciamo, all'interno delle assemblee, non so come dire, però di attenzione un pochino più critica nel dire non è colpa nostra, non è colpa nostra, ma siamo dentro al privilegio, e dentro al privilegio bisogna sempre in qualche modo, no? Come tra bianchi e neri negli Stati Uniti post segregazione, non so come dire, cioè se eri bianco, ok, non è colpa tua la schiavitù, però vivi in un privilegio. Quindi niente, era solo un appunto di questo tipo. Io no, su questo volevo è vero. Però è vero che non è che abbiamo goduto tutti in parte uguale di questo privilegio, quindi c'è chi ha veramente costruito i profitti su questo, e diciamo a Taranto si vede, no? C'è chi ha subito chi è morto, oltre a, e quindi è chiaro che hai degli elementi rispetto a hai un cosiddetto primo mondo che ha una responsabilità nella devastazione del pianeta nettamente superiore ad altri, di cui gocciolando ha beneficiato anche l'ultimo abitante, ma in proporzione così diseguale, che ovviamente il puntare bene il dito su chi è che ci ha fatto i profitti è una cosa essenziale, perché altrimenti andiamo in difficoltà. E siccome questa è la propaganda, cioè c'è la pubblicità della Ferrarelle che ti fa la bottiglietta a tutta pagina con scritto la bottiglia della Ferrarelle di plastica, ho scritto salva il pianeta, ricicla questa bottiglia, ok, riciclo questa bottiglia, non la produrre, perché è chiaro che io riciclo questa bottiglia, ma se tu non la produci, se tu che ci guadagni a produrla, io devo bere l'acqua, la posso bere in qualsiasi modo ovviamente, quindi questo ribaltamento di prospettiva è importante. Però su questo, per esempio, nella proposta del Green New Deal che dicevamo prima, non a caso la proposta, la famosa risoluzione di Alessandro Ocasio-Cortez sul Green New Deal chiede che gli Stati Uniti azzerino le emissioni al 2030, non al 2050, proprio per dare possibilità a paesi in cui i bisogni primari di energia spesso non ci sono, sono molto più in difficoltà avere più tempo, diciamo, per la transizione ecologica rispetto a società che possono ovviamente farla più velocemente. Quindi obiettivamente alcune società devono andare molto più veloci nella transizione ecologica rispetto ad altre, quindi che hanno avuto più privilegio. Dopodiché sono molto d'accordo, come mettevamo prima, anche loro, rispetto ai comportamenti individuali, che sono un elemento essenziale, per cui non è che nel dire non è colpa nostra pensiamo che si può continuare a vivere, cioè nessuno può continuare a vivere come ha vissuto fino adesso, in primis chi ha fatto i profitti e chi ne ha la responsabilità principale. E però per immaginare un altro mondo dobbiamo immaginare e quindi cominciare a praticare subito anche altre abitudini che ovviamente impattano sulla società complessivamente, quindi è chiaro che questo è un elemento che ci dobbiamo prendere tutte, non c'è dubbio. Si va XM? Ok, allora chiudiamo qua. Appunto, la scelta è stata, ringraziamo tutti voi di aver partecipato a questo dibattito, la scelta è stata di fare l'ultima iniziativa di questo festival, che appunto fa la seconda edizione, che facciamo come edizione Alegre e il VAG qui al VAG 61, ma di fare questa ultima iniziativa, che è la presentazione del libro Geografia della Rivolta su Primo Moroni al nuovo XM24, in solidarietà e stretta connessione con quella battaglia che c'è questo fine settimana, ha riportato a occupare un nuovo spazio per i compagni dell'XM. Quindi ci trasferiamo tutti là e chiudiamo questo festival. Qui quindi ci salutiamo, ringraziamo il VAG 61 di averci ospitato. Chi è interessato alla rivista la trova al banchetto, e grazie a tutti. Paolino ha 3 posti in macchina, sì, se qualcuno ci ha bisogno. Ciao. Abbiamo bisogno di passare. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao